sembra un po' solletica, le strade a mare, il grasso sole da lontano, tortura erode, vecchie mura rovinate, l'acqua nera risveglia membra e foglie morte, l'antica prezza della polvere. Scivolo via, disegno salti e puttane, abbandono la scia che fu tracciata dal cane, terra secca sopra il mare, buio freddo quasi svengo. Yeah.